una situazione è di un bipolarismo tra un'opzione di tipo neoliberista, che in questo caso è stata presentata fin dall'inizio con Javier Milei, che è un personaggio che ormai la stampa internazionale ha descritto abbastanza, un personaggio un po' bizzarro con seghe elettriche come simbolo per voltare realmente pagina e tagliare tutto il tagliabile sull'ombra di quelle che sono le impostazioni trumpiane. E l'altra opzione è quella invece di Forza Patria, che è una classica opzione peronista, più che insomma un'ideologia e così via, è uno stile politico. L'opzione Forza Patria è una, per quanto è possibile dire, progressista, legata all'ex presidentessa Cristina Kirchner, il principale partito d'opposizione, che attualmente è rafforzato dopo il successo appunto dell'elezione della provincia di Buenos Aires. E invece il partito governativo, che è la Libertà Avanza, partito del presidente Javier Milei, che appunto ha un orientamento invece di tipo liberista, conservatore non so fino a quanto, perché poi alla fine le politiche di Milei hanno avuto un impatto abbastanza contrastante, diciamo così, cioè da un lato una politica economica appunto liberista che ha ottenuto importanti risultati rispetto alla riduzione dell'inflazione, fattore che più interessa da sempre l'Argentina, portandola poi dal 2011% al 118%. Questo ha contribuito sì a stabilizzare l'economia, quindi a favorire una crescita del prodotto interno lordo intorno al 5-8%, che è sicuramente un elemento positivo anche per le strati più bassi della popolazione effettivamente, però dall'altro la politica, ecco, di forte riduzione della spesa pubblica, licenziamenti, si parla di oltre 50.000 licenziamenti, ovviamente hanno aumentato la precarietà sul lavoro, ridotto la protezione sociale, questa forte contraddizione soprattutto rispetto ai pensionati. Quindi i salari reali sono diminuiti di fatto con la cosiddetta dollarizzazione dell'economia, che ha favorito chi ha accesso naturalmente a le valute forti. I costi, i servizi essenziali sono aumentati in maniera drastica, gas più 600%, i trasporti più del 700%, l'elettricità quasi al 400% di aumento, quindi tutto ciò grava in maniera pesante sui redditi più bassi, sicuramente hanno portato a una messa in discussione, anche perché poi l'opzione governativa aveva un forte consenso anche in settori della società molto bassi, per cui questo sicuramente ha fatto rivedere un po' quelle che sono le percentuali di consenso. In cosa consiste esattamente questo currency swap? Questo può essere un gesto che rafforza o indebolisce la posizione dell'Argentina di Milei? È un giochino di prestito ma non prestito, ovvero sia un gioco fra le banche nazionali che fa sì da rendere disponibile dei fondi utili a venire fuori da una situazione di stallo nell'attualità in cui l'Argentina di Milei si trova. Quindi indubbiamente questo qui è un'emergenza che si sta risolvendo proprio con questa disponibilità da parte dell'amministrazione Trump, che avverte quanto possa essere importante strategicamente il far rimanere l'Argentina nella propria, insomma, nella propria galassia. Se un tempo Milei insomma usava questa frase "no hay plata" ritagliata intorno al personaggio in quella congiuntura, nell'attualità invece è cambiato profondamente. Adesso dice "i dollari ci usciranno dalle orecchie", perché Trump è corso al suo soccorso. La mancanza di sostegno legislativo ai piani di Javier Milei e il fallimento elettorale un po' del suo partito nelle elezioni provinciali recenti e anche gli scandali di corruzione hanno influito fortemente sulla credibilità del governo agli occhi degli investitori, e soprattutto fa paura all'amministrazione Trump rispetto all'influenza cinese, perché la Cina ovviamente sta approfittando di questa situazione per entrare un po' nell'economia di vari paesi. Ha fatto sì che il segretario tesoro statunitense Scott Bessent ha annunciato che l'Argentina, cito testualmente, è un alleato di importanza sistemica degli Stati Uniti d'America. Quanto saranno decisive dunque le elezioni di midterm per quanto riguarda la credibilità politica di Milei, che ultimamente sta subendo colpi abbastanza importanti? Milei sta conducendo una campagna elettorale, diciamo così, abbastanza bizzarra, che comunque ha scritto un libro che si intitola The Construction of the Miracle, che è la costruzione del miracolo. Una volta si intitolava Il Miracolo, invece adesso è la costruzione del miracolo, quindi non lo dà così per scontato poi che abbia successo il suo tentativo di raddrizzare l'economia, e anche la corruzione che ha fatto sì sia il caso Espert, ovvero sia, diciamo, uno scandalo che ha colpito un uomo forte un candidato del partito al governo, deputato per la provincia di Buenos Aires, José Luis Espert, che a causa di legami con un uomo d'affari, Federico Fred Machado, che ha avuto un'estradizione negli Stati Uniti per accuse di traffico di droga, ovviamente ha fatto un bel botto. Poi lo scandalo di corruzione di sua sorella, Karina Milei, che è sorella del Presidente e segretaria generale della Presidenza, che appunto con una fuga di notizie ha messo in evidenza una corruzione da parte della Disability Agency. E poi all'inizio di quest'anno anche lo stesso Milei è stato coinvolto in un caso di promozione di una criptovaluta, la Libra, che è sotto inchiesta, ecco, da parte dei tribunali come truffa presunta, ma che comunque chiude un po' il circolo della corruzione, che sicuramente andrà a incidere e lo sta facendo nei sondaggi che danno un gradimento per il governo molto basso, circa il 39%.